lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto l'apparenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, ho sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma c'è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Almeno tu. Almeno tu. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori.